16:09 minuti primi sulla modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa 87.9. Salutiamo Radio Teatro e cominciamo la puntata di quest'oggi 8 novembre 2011 di Region Air. Le 16:13 minuti primi sulle frequenze di modulazione di Radio Onda Rossa, gli 87.9, vi ricordiamo il recapito telefonico 06 49 17 50 o la mail ondarossa@ondarossa.info e andiamo a cominciare la puntata di quest'oggi di Region Air. Vi ricordiamo la trasmissione degli studenti medi tutti i martedì dalle 4 alle 5. Andremo oggi a parlare un po' di diverse cose, a partire dalla giornata del 3 novembre. Scusate, mi sbaglio sempre con le date, poi mi pigliano in giro, allora non le voglio mai dire. Del 3 novembre, in cui gli studenti romani sono scesi in piazza, c'è stata qui in radio una mattinata intera di dirette in cui ci si è collegati con la piazza. Andremo oggi un attimo a raccontare di nuovo questa giornata. Insomma, abbiamo qui in studio i compagni che erano in piazza, che ci andranno a raccontare come è andata effettivamente la giornata. Dopodiché vedremo, insomma, come andrà questa chiacchierata e come continuare la nostra ora di trasmissione. questa storia obbligo morale russo rozpizdoto maniacale i paranormale. Prima che parta il fantastico ritornello di questo pezzo di Gogol Bordello, vi ricordiamo i numeri per sottoscrivere alla radio: 618-04001, il conto corrente postale dove fare il versamento, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56, 00185, Roma. Iskorat palestrina, звезда периферии, вся в маслинах, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экасу, и о Борга Мадонна, где тритворный подъезд или этот отъезд тело мусоропровода. Сам архетия у меня мадре, ау, крещендо паранойя. Сам архетия у меня мадре, ау, творка Мадонна. Конечно, флиртовал, но и семье помогал. А я на римской мостовой, я лежал, ждал выбой. Ой-ой-ой-ой, я так просил пить, оттуда еще этот папа. Надежда сползала по стенам, муха не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро из океана. И тогда на расходняк. Ah! И тогда на расходняк. Ed ecco, erano i Gogol Bordello con Santa Marinella, la canzone scritta dal cantante in carcere, prima di uscire dal carcere, tutte le bestemmie che sentiva dire dagli italiani, si era scritte su un bel foglietto e poi appena uscito ci ha scritto questo splendido testo. Le 16:22 minuti, 21 secondi per la precisione di questo orologio che a me piace tantissimo, ormai ve l'ho ripetuto migliaia di volte, lo saprete a memoria. 0649 1750 il numero per chiamarci. Dicevamo, annunciavamo prima dell'ultimo brano che saremmo andati a parlare del 3 novembre, giornata di mobilitazione studentesca in cui la radio ha seguito, in radio c'è stata una diretta, insomma forse se avete ascoltato la radio giovedì mattina avete già sentito come è andata la giornata, ma comunque ci sembrava di dovere in quest'ora di spazio che abbiamo qui con Regione IR di analizzare la giornata e di raccontare ancora una volta magari un po' più dettagliatamente. Perciò io ero in radio qui, perciò ho seguito solo per telefono, in realtà la situazione era molto complicata, non mi sento in grado di analizzarla benissimo. Ci sono qui un compagno e una compagna che invece erano in piazza. Ciao. E che sicuramente ci saranno a spiegare meglio che cosa è successo in quella mattina. Allora, ciao, insomma, io e lei eravamo in piazza, insomma, il 3, e praticamente, insomma, volevamo appunto raccontarvi ciò che è successo veramente, insomma, a parte tanto quello che possono dirvi i giornali, eccetera, noi veramente siamo stati lì praticamente dalle 10. Diciamo che prima ci siamo andati comunque concentramenti davanti alle scuole, prima di tutto già dalla mattina sotto le scuole, diciamo numerose scuole, possiamo dire Dalmamiani, Tasso, Righi, Virgilio, Visconti, Morgani. Cavour, Morgagni, insomma molte delle nostre scuole si sono ritrovati praticamente un cordone di celere schierate, insomma cioè comunque poi numerose camionette nonché Digos che in molti casi hanno addirittura identificato neanche partito del corteo, hanno già identificato comunque molti ragazzi appena usciti dalle scuole, proprio di fronte alle proprie scuole, così in alcuni casi sono state addirittura delle diffide, praticamente questi ragazzi rischiano di essere fermati e diciamo incarcerati per un eventuale prossimo corteo non autorizzato. Diciamo che insomma rischiano il penale da questo punto di vista. All'interno del Mamiani addirittura il giorno prima si è verificato un episodio gravissimo nel quale un commissario della polizia, appunto del commissariato di Prati, era entrato proprio all'interno della scuola, ricevuto dalla preside dell'istituto, chiedendo che fossero convocati i ragazzi che facevano politica all'interno della scuola, quindi chiedendo che fossero convocati lì appunto i ragazzi del collettivo. E appunto la preside ha chiamato i rappresentanti di istituto di questa scuola e diciamo facendoli parlare con questo commissario che gli ha chiesto appunto cosa avevano intenzione di fare appunto l'indomani, il 3 novembre, e insomma quali erano le loro intenzioni. Questo appunto è un episodio gravissimo che si era verificato anche il giorno prima. Ecco, insomma la repressione delle forze dell'ordine, la repressione di questo governo e di questa classe politica ormai la conosciamo abbastanza bene. Questo qui però è un episodio che forse ci si poteva aspettare dopo le dichiarazioni del sindaco, del nostro carissimo sindaco Lemanno, del 15 ottobre. Vi ricordiamo insomma che emanò quel comunicato in cui diceva che per un mese non si sarebbero più fatti i cortei nel centro di Roma, e gli studenti hanno accolto bene diciamo questa provocazione rilanciando subito un'altra giornata che è stata proprio quella del 3, che si voleva andare un attimo contro questa ordinanza, perché obbedire a questa ordinanza, stare in silenzio, avrebbe dovuto dire accettare quella palata di fango che c'era stata lanciata dai media dopo il 15 ottobre, che aveva cercato di distruggere il movimento che noi stavamo costruendo. Perciò sì, il 3 ottobre abbiamo lanciato questa giornata di mobilitazione per andare contro l'ordinanza del sindaco. Sì, non a caso infatti abbiamo scelto come piazza di partenza comunque una stazione di Tiburtina, proprio perché comunque si trova al di fuori del primo municipio. Con l'intenzione di arrivare in sì, appunto, comunque con l'intenzione sì, di andare contro la diciamo appunto la decisione del sindaco Alemanno di praticamente di toglierci questo diritto garantito dalla Costituzione, praticamente appunto un divieto incostituzionale, e perciò appunto puntare a chi veramente invece ha praticamente il grosso della responsabilità di tutto quello che ci succede, di tutto ciò che grava sulle nostre spalle, cioè il Ministero dell'Economia. Soltanto che appunto, cioè, come avete ben visto, diciamo, gli studenti non sono riusciti neanche a muovere un metro oltre i piazzali della stazione di Tiburtina. Infatti l'unica cosa che siamo riusciti a fare è stato appunto bloccare per 4 ore, anzi bloccare, un po' relativo alla situazione, cioè abbiamo bloccato ma siamo stati bloccati alla stazione di Tiburtina praticamente. Ci dicevamo prima in fuori onda che in realtà noi volevamo fare una piccola precisazione, nel senso che sì, noi il 3 novembre, ho detto, io mi sbaglio sempre con le date, scendevamo contro questa ordinanza accogliendo la provocazione, ma non solo per appunto accettare questa provocazione sterilmente, semplicemente dicendo c'è stai sul cazzo, noi scendiamo lo stesso. No, il discorso è molto più ampio, noi abbiamo delle idee in cui crediamo, le vogliamo portare avanti, vogliamo costruire un movimento, e non siete brutto fascistello del cavolo che ce lo impedirai. E niente, adesso magari facciamo una pausa musicale per non appesantire troppo le discussioni, continuiamo a parlarne tra pochi minuti. Vi mandiamo un pezzo dei Rage Against the Machine. Good evening. Non a caso, Fuck the Police. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. It's something nice and friendly. It goes a little something like this. Fuck the police, coming straight out the underground. A young nigga got his bad cause I'm brown. And all the undercovers the police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a poor motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fuck it with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Chillin' in a bench, yo. I'm tired of shame. And when I'm finished, I'm bringing yellow tape to mark off the scene of the slaughter. Till the swollen bread and water. No finish, going to say. Oh, yo, nigga, on a war path. And when I'm finished, yo, that's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, I got something to say. Fuck the police. Swarm on any motherfucker in 16:33 minuti primi e 7 secondi sull'orologio di Radio Onda Rossa, 06491750, il recapito telefonico. Stavamo parlando pochi minuti fa, giusto 5 minuti fa e 33 secondi direi, del 3 novembre, giornata in cui gli studenti medi qui a Roma sono scesi in piazza. Vi stiamo raccontando un po' la giornata delle provocazioni della polizia, iniziate non in piazza come le altre volte, ma addirittura giorni prima. Ricordavamo che al Mamiani il commissario di polizia del quartiere si è presentato il giorno prima dalla preside per chiedere chi fossero gli attivisti che sarebbero scesi in piazza il giorno seguente. Anche al Tasso, se non sbaglio, è successa una cosa analoga, in cui la Digos si è presentata nell'istituto richiedendo i nominativi, e addirittura in alcune scuole i presidi si sono resi disponibili con la polizia consegnando i nominativi. Insomma, questa forma di repressione subdola e passiva, diciamo, insomma, che forse non ci aspettavamo, ma dall'infamità delle forze dell'ordine che si vede in piazza forse ci si poteva aspettare. Dopodiché continuate a raccontarci la giornata, insomma, dalla mattina, nonostante le varie provocazioni davanti alle scuole con i blindati e la celere, i vari studenti di tutti gli istituti sono comunque riusciti a partire per arrivare a Piazzale Tiburtino. Dove, che è successo? Va bene, insomma, abbiamo raccontato che è successo appunto fino tutta la mattinata, praticamente dalle scuole fino a Piazzale Tiburtino. Dopodiché lì le prime scuole che si sono praticamente concentrate nella piazza hanno subito anche lì numerose identificazioni scuola per scuola, e a quel punto praticamente si era già alzato praticamente, diciamo, il clima che volevano praticamente innescare per la giornata. Praticamente appunto nel momento in cui la piazza si è finalmente riempita di studenti, tutta la piazza si è ritrovata circondata da camionette e camionette della polizia, che non hanno consentito in alcun modo lo svolgimento di un corteo, che comunque ricordiamo siamo scesi in modi, diciamo, con metodi totalmente pacifici, comunque a volto scoperto, senza caschi. Diciamo, quello che volevamo portare avanti era comunque il messaggio di determinazione, comunque rappresentato dai nostri big block, che in questo caso più che mai ci sono stati più che utili, diciamo. Sì, infatti oltre a book block ci stava appunto il nostro striscione, che stava in testa, che quando abbiamo provato a partire diverse volte, ma siamo appunto stati sempre respinte da piccole cariche della polizia, che insomma hanno lasciato anche alcuni feriti all'interno della piazza. E questo striscione appunto con lo slogan G20, BCE, Alemanno, Global Revolution, voleva appunto portare il nome della giornata di quella che doveva essere una giornata che doveva arrivare appunto al Ministero del Tesoro. Soltanto che appunto questo ingente schieramento delle forze dell'ordine, che andava a coprire ogni possibile lato di uscita appunto del corteo, non ci ha permesso assolutamente di andare da nessuna parte, e appunto nonostante ci abbiamo provato più e più volte, e c'è stata appunto anche una occupazione temporanea di pochi secondi da parte del cantiere della stazione di Tiburtina, poiché alcuni appunto operai del cantiere in costruzione ci hanno proprio aperto le barriere del cantiere, ce le hanno aperte per far arrivare gli studenti appunto all'interno, dato che la polizia comunque stava chiudendo sempre di più la piazza. E non lo so, c'è stato appunto, volevamo violare questo divieto delle mani, e comunque ci siamo riusciti in parte grazie anche alla scuola Virgilio, che per raggiungere la piazza comunque ha violato anche la zona del primo municipio, scendendo in corteo dalla Previa Scuola fino appunto a raggiungere i ragazzi di Prati, per poi appunto prendere la metro e arrivare alla stazione di Tiburtina. Anche perché poi, scusate un attimo, precisare, diciamo, una certa situazione si è creata in piazza. Tanti giornali parlano di scontri, non è corretto questo non è il termine corretto. Diciamo, non è neanche corretto il termine carica, perché comunque sappiamo benissimo noi che eravamo in piazza, che da parte della polizia non c'è stato alcun ordine di sgomberare la piazza, non c'è stata alcuna carica praticamente ci sono ritrovati davanti a un cordone di polizia che non vedeva l'ora di praticamente manganellarci, e come al solito in queste situazioni il primo poliziotto che perde un attimo il controllo praticamente viene seguito da tutti quanti i suoi colleghi, e i capi piazza praticamente non fanno nulla per fermare questo tipo di, non so, cioè da definire quasi macelleria a quel punto, perché diciamo senza un preciso ordine di un superiore il poliziotto prende e scapoccia lo studente. Infatti ci siamo trovati numerosi feriti da parte degli studenti e diciamo anche comunque fermati, tutti quanti gli 11 fermati, ricordiamolo, sono tutti quanti ragazzi minorenni, e praticamente in giornata, nello stesso pomeriggio, sono stati rilasciati. E comunque appunto, nonostante questa risposta così repressiva, così veramente esagerata che c'è stata da parte delle forze dell'ordine, non ci aspettavamo comunque così larga, in questo modo così largo, proprio perché appunto stava in una zona comunque molto lontana dal primo municipio, e comunque abbiamo appunto conquistato e tenuto la piazza per diverse ore, e poi siamo riusciti appunto a partire dopo in corteo comunque fino a raggiungere la Sapienza, Piazza Lerdo Moro. E questo, no no prego. Niente, questa giornata comunque appunto è andata come andata, ma non è assolutamente appunto una sconfitta, perché diciamo la figura di merda ce l'hanno fatta loro, e ce l'hanno fatta anche grossa. Tutte queste restrizioni repressive che ci fanno non fanno altro che aumentare la nostra voglia di scendere in piazza sempre. Ecco, io che stavo qui in radio, no, ti ho interrotto di nuovo. No, vai. Al massimo una cosa aggiungerei, esempio, è diciamo la diciamo l'incoerenza da parte delle istituzioni. Insomma, c'è lo stesso Alemanno che subito dopo, diciamo, subito dopo il 15 ottobre decide di vietare i cortei nel primo municipio per salvaguardare il traffico di una città, nel momento in cui costringi 500 e più studenti su una piazza e non li costringe a rimanere lì, vietandogli di andare via in corteo, comunque di uscire da quella piazza in corteo. Mi sembra che comunque l'occupazione di un nodo cruciale per il traffico di Roma come Tiburtina, insomma, credo che sia sì, sono stati bloccati anche gli stessi treni, esatto, della stazione e la fermata della metro, quindi diciamo la metro, tutta la stazione dei Codral, i pullman lì vicino, e a certo punto Alemà, bella mossa. Hai vinto Tezzi. Sei solido, è sempre proprio sveglio. Diciamo il king, dai. E poi non solo da parte del comune, ma diciamo la situazione con le forze dell'ordine si è sbloccata comunque grazie tra virgolette all'intervento di alcuni parlamentari, tra cui anche numerosi mi sembra credo 2 o 3 parlamentari di DV, che diciamo fanno parte dello stesso partito di cui, cioè di Pietro, che ricordiamo dopo il 15 ottobre aveva proposto un ritorno alla legge reale. Ecco, perciò sì, noi una notizia si commenta da sola, insomma, cioè. Sì, vabbè, allora non la commento. Volevo dire 2 parole, che non mi fate non parlare può. Oggi, uffa. Vabbè, insomma, da questa giornata possiamo dire di essere usciti vincitori, non solo per l'uscita mediatica, insomma, per i dati di fatto, che in quel caso avevamo totalmente il coltello dalla parte del manico, visto che le forze dell'ordine senza motivo hanno semplicemente accerchiato gli studenti e rinchiusi dentro questo cantiere, ma penso che siamo usciti vincitori anche per l'opinione pubblica, nel senso, io stavo qui in radio e abbiamo ricevuto diverse chiamate da tutta la cittadinanza, sia da ragazzi che da signore più anziane. Una signora che addirittura mi ha chiamato e mi ha fatto: senti, io ho preparato la tenda, sto scendendo a Tiburtina, monto la tenda e non me ne vado più. Insomma, poi l'abbiamo un attimo calmata, perché forse non era il caso, sarà stata una signora sugli 80 anni e comunque ha preso un cartellone e è scesa in piazza per manifestare solidarietà con gli studenti. Insomma, tutto questo per dire che siamo usciti vincitori, e anche gli studenti hanno saputo sostenere molto bene la situazione, in quanto hanno resistito a queste aggressioni della polizia e hanno saputo leggere bene il senso, la situazione, nel senso molti quando in un'altra situazione si sarebbero spaventati, magari sarebbero scappati, invece sono restati, hanno detto: vedi questi pezzi di merda ci stanno a caricare, io voglio manifestare, resto qui in piazza. Qui. Esatto. E niente, magari adesso facciamo un'altra pausa musicale. I Portishead che stavano partendo prima che iniziassimo questo sproloquio che vi avrà fatto addormentare. Alle 16:43 minuti, i Portishead con Humming. Questo pezzo dei Portishead intonato alla pioggia che ci sta fracicando a tutti qui a Roma, volevamo ricordare un tragico fatto di qualche giorno fa accaduto con il nubifragio in Liguria. A Genova sono deceduti cinque ragazzi, cinque nostri coetanei. Insomma, noi volevamo dire due parole nel nostro spazio, in quanto questa faccenda ci tocca molto da vicino. Come è accaduto a loro, poteva accadere a noi qualche settimana fa, quando il nubifragio c'è stato qui a Roma, forse con meno conseguenze, ma comunque con un disperso allo stesso modo, e con conseguenze che potevano essere simili. Quindi, per il poco che possiamo fare, noi volevamo esprimere solidarietà alle famiglie dei ragazzi e volevamo puntare un attimo la lente d'ingrandimento di nuovo contro sulle nostre istituzioni, che ancora una volta dimostrano una salvaguardia attentissima sui giovani. Naturalmente sono ironico, in quanto i giornali hanno puntato l'attenzione sul fatto che sono stati chiusi i cimiteri, sono state chiuse le case anziani, ma nessuno ha pensato alle scuole e ai posti frequentati dagli studenti. Ancora una volta solidarietà alle famiglie dei ragazzi morti a Genova. Volevamo collegarci anche con le altre città che intorno alla giornata del 3 erano scese in piazza e che proprio il 3 avevano lanciato un comunicato di solidarietà per noi studenti romani intrappolati lì a Tiburtina. Purtroppo abbiamo qualche problema con il telefono e non riusciamo a contattarli. Comunque vi ricordiamo che sul sito studout.it trovate tutti i comunicati che diciamo collegano tutte le mobilitazioni studentesche delle varie città italiane. E dunque, andando scavalcando la giornata del 3, di cui mi sembra che abbiamo parlato abbondantemente, vi sarete abbondantemente stufati, avrete abbondantemente cambiato canale. E, no, speriamo che la vostra radio segni sempre 87.9. Niente, volevamo subito rilanciare un'altra giornata, che sarà quella del 17 ottobre, anzi prima dell'11, sì, 17 ottobre, guardate come sto. Che palle. Vabbè, ricominciamo da capo. Dunque, volevamo lanciare la giornata dell'11 novembre, innanzitutto giornata di livello internazionale. Smetti di ridere perché tra un po' devi parlare pure te, se no che figura fai? La giornata di Occupy Everywhere, appunto una giornata condivisa a livello mondiale in cui nelle diverse città ci saranno diverse iniziative, poi un'altra giornata lanciata dagli studenti Mediat organizzati di Roma, che sarà il 17 novembre, per andare ancora avanti con il nostro percorso di mobilitazione. Le parole di ordine saranno sempre le stesse: governo BCE G20, the only solution is global revolution. È l'inizio del comunicato che, se non è già pubblicato su Studout, sarà pubblicato tra poche ore. Vi invitiamo a leggere. E, niente, direi che più o meno siamo arrivati alla conclusione. Mancano pochi minuti e poi vi lasceremo alla prossima trasmissione. Vi ricordiamo il martedì autogestito da femministe e lesbiche alle 17. Intanto ci ascoltiamo ancora un po' di musica, e se ci siamo dimenticati qualcosa ve la diciamo dopo il prossimo pezzo. Ah.